Combattenti e infermieri, i talebani e la nuova normalità. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Gianpaolo Musumeci. Today, almost 18% of all Afghan districts are under Taliban control and 48% are contested. The Taliban don't have military might. What they do have is local legitimacy. How have they been able to extend their power? Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano. Anche quest'oggi la squadra: Antonio Tali, Ilaria Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Elisabetta Fusconi in assistenza. In regia ritroviamo Filippo Aureggi. 349-238-6666, il numero per SMS e WhatsApp per domande e commenti. Potete usare anche i social: Facebook Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero il mio account che è Giampaz. Commentare o porre domande su che cosa? Come scrive Ashley Jackson molto recentemente su Foreign Policy, il Covid-19 per i talebani è una formidabile opportunità per fare propaganda, per creare consenso di fronte a un governo, giocano facile direte voi, e forse avete ragione, estremamente fragile, che fatica per il momento a contenere la pandemia. Un governo fragile che nemmeno oltre 20 anni di supporto di comunità internazionale è riuscita a dare una forma, una struttura, una potenza in grado di opporsi a una forza, quella dei talebani, che controlla quasi l'80% del territorio. Con quali conseguenze? Ne parliamo quest'oggi. 349-238-6666 per voi. Noi invece andiamo a sfogliare i primi dossier internazionali. Il primo ci porta in Polonia. Ne parlavamo giusto ieri. Vi ricordate, sottolineavamo come la possibilità di posticipare l'appuntamento elettorale presidenziale di pochissimi giorni non avesse base legale. Ebbene, le elezioni presidenziali in Polonia, previste per questa domenica 10 maggio, sono state rinviate a data da destinarsi. L'annuncio è arrivato nella tarda serata di ieri dal capo del partito al potere Kaczynski, dal suo alleato Gowin, in una dichiarazione che i due hanno fatto congiuntamente. La decisione è arrivata dopo giorni di scontri, di aspre polemiche, mentre il paese fa i conti con l'epidemia di coronavirus: 14.000 contagi, 733 i decessi. Il governo, il presidente uscente Duda, che è sostenuto dal partito di destra Diritto e Giustizia e super favorito nei sondaggi, aveva cercato di fare di tutto per andare al voto, all'appuntamento elettorale quanto prima, ma non vi è riuscito. Peraltro aveva cercato addirittura di far approvare una nuova legge che consentisse la tornata elettorale semplicemente via posta. Contestatissima questa scelta dai partiti di opposizione, che temevano possibili brogli. La lettura politica di quello che è accaduto la fa politico.eu, autorevolissimo osservatorio per tutto ciò che riguarda le dinamiche politiche nel vecchio continente. Questa decisione, dicevo, è una sconfitta per Kaczynski, il presidente del partito Diritto e Giustizia, e vedremo se e quando si andrà a votare, con quali esiti. Vedremo se la lettura di Politico troverà poi una cartina tornasole anche nelle intenzioni degli elettori. E poi andiamo in Libia, dove verrebbe da dire il re è nudo. Perché? Perché la notizia che vi diamo, che avevamo già sussurrato parecchie volte citando le nostre fonti libiche, la notizia arriva dall'agenzia Reuters, che cita un rapporto confidenziale delle Nazioni Unite. Ebbene, che cosa dice questo rapporto? Che la Wagner Group, agenzia privata di contractors russi, un gruppo paramilitare a tutti gli effetti, avrebbe schierato in Libia 1200 uomini in sostegno alle forze del generale Khalifa Haftar. Il documento è stato redatto da una serie di analisti, di osservatori indipendenti delle Nazioni Unite, ma non fa altro che andare a confermare quello che erano le molteplici fonti che arrivavano proprio dal fronte libico. Vi ricordate, qualche settimana fa avevamo sostanziato il numero dei mercenari della Wagner in 600, poi citando altre fonti si diceva che probabilmente il numero si avvicinava molto più ragionevolmente al migliaio. Secondo gli analisti di Reuters, dell'ONU citati da Reuters, e qua leggo testualmente: il dispiegamento degli uomini messi in campo dalla Wagner ha agito come un efficace moltiplicatore di forza per Haftar. Ricordiamo che sulla Libia esiste un embargo decretato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU fin dal 2011. Haftar e i suoi alleati, non soltanto la Russia ma anche quelli più sotterranei, la Francia, gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto, hanno abilmente in questi mesi aggirato l'embargo, soprattutto al di là della presenza massiccia, diciamo, e molte volte anche visibile, dei mercenari russi. Quello che avrebbe dato una vera linfa vitale alle forze di Haftar sarebbero stati proprio gli emiratini, a suon di soldi e soprattutto di sistemi di aviazione. Naturalmente è interessante notare anche la risposta che arriva da Mosca. Vladimir Putin ha sempre detto che se ci sono russi in Libia non rappresentano lo Stato russo né vengono pagati dallo Stato stesso. La Wagner Group, inutile dirlo, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. E poi in Iraq, perché forse è finito il lunghissimo stallo politico nel martoriato paese, 6 mesi di incertezza. Finalmente il Parlamento iracheno ha votato la fiducia al nuovo governo, è guidato da Mustafa al-Kadhimi, 53 anni, ex capo dei servizi segreti del paese, giornalista, grande oppositore di Saddam Hussein. Per il momento inizierà il mandato senza tutta la squadra dei ministri al completo, solo 15 dei 22 sono stati approvati. Manca l'approvazione delle nomine di ministri particolarmente importanti, come quello del petrolio, che sono ancora in sospeso. Kadhimi si è immediatamente espresso, ha detto che farà di tutto per lottare contro il coronavirus e soprattutto che vuole dare giustizia agli oltre 1000 manifestanti uccisi durante le proteste dello scorso autunno, di cui vi abbiamo dato lungamente conto, a volte forze di sicurezza irachene, altre volte milizie legate all'Iran. La figura di al-Kadhimi è interessante, lo ha tratteggiato Al Jazeera. Lasciò l'Iraq nel 1985, oppositore di Saddam, lo dicevo, un lungo esilio e poi, dopo l'invasione americana del 2003, un ritorno nel proprio paese, dove ha fondato un network di media iracheni, prima poi di finire a dirigere l'intelligence irachena. Buon rapporto con gli Stati Uniti e anche con gli iraniani. Farà bene in Iraq? Poi in Egitto vi avevamo dato conto della morte avvolta nel mistero del giovane Shadi Abash, quel regista reo di aver dileggiato la figura di Fatah al-Sisi in un video, deceduto lo scorso 2 maggio per aver ingerito una miscela di acqua e alcol. Ecco, da quello che emerge, secondo quanto riferiscono le autorità egiziane e del carcere, egli stesso avrebbe ingerito una soluzione di liquido disinfettante. Non si capisce bene in base a quale e come abbia potuto commettere un errore così fatale. Pare che peraltro prima anche del supposto ingerimento di questa sostanza le sue condizioni di salute fossero precarie. Shadi, 24 anni, lo ricordo, si trova nel carcere di Tora, dove anche è recluso Patrick Zaki, lo studente che ha un pezzo di carriera universitaria anche italiana, bolognese. E in quel carcere si troverà ancora per alcuni giorni, parecchi giorni, perché la detenzione è stata rinnovata proprio 2 giorni fa. Questo il nostro dossier internazionale. Adesso Filippo Reggi mi aiuti a aprire la prima pagina di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano con una grammatica musicale che deve fare una concessione alla scena indie rock di Kabul. Intanto arrivano i primi messaggi sulla notte di Kabul Dreams, i primi messaggi, dicevo, al 349-238-6666. Un ascoltatore: sono curioso di vedere come gestiranno il potere Taliban, perché è chiaro cosa succederà a breve, cioè se continueranno a essere oscurantisti o meno. Così un ascoltatore fa riferimento a quelle che sono le tante paure di una buona fetta della società civile afghana, che teme una chiusura delle scuole, teme un'ulteriore chiusura nei costumi, chiusura che potrebbe portare per esempio la band le cui note state ascoltando adesso a non poter assolutamente esibirsi. Peraltro sono in esilio, quindi così come tante altre band musicali. Detto ciò, questa stretta sui costumi, sulle libertà civili individuali preoccupa parecchio. Non è questa la notizia è piuttosto un viaggio diplomatico dell'inviato statunitense per l'Afghanistan, però non tanto a Kabul quanto in India e in Pakistan. Zalmay Khalilzad è una controversa figura in patria, è infatti un afghano americano e da alcuni anni è l'inviato speciale per la crisi afghana degli Stati Uniti. Celebrato in Occidente come un grande mediatore e quello che già nel 2001 ha lavorato per varie amministrazioni, aveva convinto l'Alleanza del Nord a muoversi su Kabul e quello che per anni ha tessuto una fitta rete di relazioni con tante amministrazioni, sia con Kabul che con i talebani, Pashtun di etnia, gli è stato spesso rimproverato un comportamento troppo basato proprio su quell'appartenenza etnica. Se qualcuno di noi ha avuto la fortuna l'anno scorso, o sfortuna, a seconda dei punti di vista, di passeggiare per Kabul, beh, in un murale di quella città, della capitale, era ritratto mentre baciava sulla bocca un leader talebano. Adesso Zalmay Khalilzad dovrà fare un delicato tour, è iniziato martedì. Il tour prevede tappe a Islamabad e a Nuova Delhi. Il Pentagono non ha rilasciato quella che è l'agenda, per ovvi motivi di sicurezza, di questa delicata missione. Per fare cosa? Beh, sostanzialmente per invitare due attori esterni, che sono India e Pakistan, a facilitare proprio il dialogo intra-afgano. Gli interessi del Pakistan in Afghanistan sono tanti, specularmente all'India non interessa una posizione egemonica di Islamabad nel vicino stato fallito. Si sa, ormai è conclamata l'appoggio del Pakistan ad alcune fazioni dei talebani, la Shura Dikhetta in particolare si muove proprio dai territori pakistani per poi andare in territorio afghano, è condivisa la stessa etnia e i confini sono particolarmente porosi. Faccio un piccolo passo indietro per ricapitolare che tipo di fotografia dell'Afghanistan vi stiamo restituendo quest'oggi. Ricordate gli accordi di Doha in cui l'amministrazione statunitense con sommo gaudio degli Stati Uniti stessi aveva raggiunto un accordo, il quale accordo però poi aveva nelle previsioni uno scambio di prigionieri. Almeno 1000 prigionieri governativi afghani sarebbero dovuti essere liberati dai talebani e 5000 talebani liberati dalla parte opposta. Ecco, lì si è incastrato un po' tutto. Complice, giusto per andare a aggiungere complessità, che cosa? Che mentre Ashraf Ghani, dopo contestate elezioni e dopo 6 mesi dal voto, si proclamava presidente, Abdullah Abdullah, il suo contendente alla tornata elettorale, faceva esattamente la stessa cosa a poche centinaia di metri. Insomma, un governo fragile che si regge su stampelle davvero molto sottili e i talebani, con l'occasione del coronavirus, hanno la possibilità di guadagnare consenso e di dare ulteriori spallate a questo fragile governo. Perché guadagnare consenso? Perché nei titoli abbiamo descritto i talebani quasi come delle croce rossine? Beh, perché con una massiccia campagna sui social, sui loro media di riferimento, sostanzialmente fanno vedere, invece di AK-47 e kefie particolarmente combattive, aggressive anche nei colori, beh, mascherine chirurgiche, disinfettante per le mani e termometri digitali. Andiamo in uno di quei villaggi in cui i talebani fanno quest'opera di, secondo molti, propaganda. Da Afghanistan, Islami Imarat, da Shriat Radio, Salir Visata, da Internet Pamat Patula Nareki, Auridalese. Sui siti del regime talebano, ormai possiamo chiamarlo così perché a tutti gli effetti è vero che controlla zone rurali, ma controlla un pezzo di Afghanistan, anche sui profili Twitter dei vari portavoce c'è un fiorire di questo tipo di video in cui la distanza di sicurezza viene mantenuta, dove si può pregare a distanza, dove vengono appunto distribuiti materiale sanitario, materiale di protezione. Come riferiva un grosso network internazionale qualche giorno fa, però a volte la macchina della propaganda si inceppa, per esempio era un giornalista del New York Times, se non erro, qua mi perdonerete, la memoria mi fa difetto, comunque era riuscito a scoprire che uno di quei termometri digitali a cui noi ci stiamo tristemente abituando in realtà era un giochino di plastica, non era assolutamente funzionante, era stato riprodotto semplicemente un termometro digitale non funzionante per dare l'idea della efficiente macchina sanitaria dei talebani. Di fronte a che cosa? Lo ripeto ancora una volta, un governo fragile e una struttura sanitaria assolutamente non all'altezza, c'è una terapia intensiva sostanzialmente in tutto l'Afghanistan. Questo è il quadro a tinte piuttosto fosche che vi restituisco in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano, e vengo ai vostri messaggi 349-238-6666. Qualcuno torna al caso del giovane regista egiziano morto, ha bevuto o gli è stato fatto bere quella soluzione di acqua e alcol? Tutto può essere, ma sarebbe uno strano suicidio comodo al regime, e questo non c'è dubbio, così come sarebbe uno stranissimo incidente, immaginate di ingerire una sostanza che odora fortemente di alcol, evidentemente a meno di, perdonate la battuta, di seguire qualche consiglio che arriva da un presidente statunitense, per il resto ci risulterebbe difficile immaginare di migliorare la nostra salute ingerendo alcol. Qualcun altro va invece sulla situazione dell'Afghanistan. Sono paesi in cui la libertà è dannosa, scrive un ascoltatore, e noi qui ci avviamo sulla stessa falsa riga. Allora, 349-238-6666, abbiamo parlato di talebani, mettiamo i puntini sulle i. Chi sono i talebani? Sentite. Contrariamente a quanto può sembrare a prima vista, i talebani non sono un corpo monolitico. Sotto la comune etichetta di talebani si raccolgono infatti diversi centri di potere chiamati shure, uniti da una causa comune, la guerra alle truppe di occupazione straniera e la ripresa del potere, ma divisi da interessi strategici divergenti e rivalità personali. La Shura, o Consiglio di Quetta, che prende il nome dall'omonima città pakistana, è considerata il massimo organo di rappresentanza politica del movimento. A guidarla è Ibatullah Akhundzada, nominato leader dei talebani dopo la morte del Mullah Mansur, ucciso da un drone americano nel 2016. Il vice di Akhundzada è Sirayuddin Haqqani, leader della cosiddetta Rete Haqqani, un ramificato clan familiare che rappresenta l'ala più radicale e oltranzista dei talebani afghani, attiva soprattutto nelle province sudorientali dell'Afghanistan. Fondata da Jalaluddin Haqqani, tra i leader della resistenza antisovietica negli anni Ottanta, la rete è responsabile di alcuni degli attacchi più sanguinosi compiuti in Afghanistan contro le truppe straniere e il governo locale. Per molti anni, gli Haqqani sono stati considerati dal governo statunitense il più grande pericolo per le truppe americane in Afghanistan. Sono l'ala oltranzista e stragista del movimento, ostili a ogni compromesso. Ma qualcosa sembra essere cambiato. Lo scorso febbraio, il New York Times ha ospitato un editoriale a firma di Sirayuddin Haqqani, in cui il leader talebano prometteva pace e il rispetto dei diritti delle donne. Una mossa diplomatica per accreditarsi come interlocutore verso l'Occidente. Questo per dare anche un'idea che l'etichetta talebani chiaramente va a riassumere tante fazioni. Quelle che avete sentito sono le due principali. Anche i comportamenti sul campo sono stati molto diversi. Non tutti hanno seguito pedissequamente quelli che erano gli ordini durante i colloqui di Doha. Anzi, a ben vedere, nelle ultime settimane gli attacchi sono stati tantissimi, ma molto spesso quando si tratta si mette la pistola sul tavolo, e questa, come dire, è una prassi che attori forti e muscolari come i talebani sicuramente hanno mutuato. 349-238-6666, qualcuno va a stigmatizzare l'intervento statunitense, come John che scrive: come sempre dopo l'intervento americano da qualsiasi parte del mondo si lasciano paesi falliti in preda al caos come Iraq e Afghanistan. Poi c'è qualcun altro che scrive: buonasera, ma i talebani sono gli stessi degli sgozzamenti o sono cambiati? Così Antonio, lo ripeto, ci sono facce buone e facce cattive. Evidentemente da quando è stata impiantata l'ambasciata a Doha, i talebani hanno cercato di accreditarsi anche in Occidente con delle venature molto molto meno violente. Allo stesso tempo le notizie che arrivano dai territori controllati non parlano affatto di migliori diritti per le donne, libertà individuali, libertà sociali e civili. Ma d'altra parte l'esercito afghano non ha gli strumenti per poter reggere l'impatto molto spesso, e il progressivo ritiro da parte della comunità internazionale sta lasciando un campo vuoto che i talebani evidentemente stanno riuscendo a riempire. Va poi ricordato, ed è utile ricordare, che stiamo parlando di combattenti che sono cresciuti con ciabatte e Kalashnikov coperti solo di una coperta di lana spessa, quella tipica afghana, capaci di muoversi su quelle montagne con estrema rapidità, piccoli plotoni, lanciarazzi RPG capaci di buttare giù anche elicotteri, a fare assalti ai convogli, insomma un tipo di guerriglia che molto spesso ha messo in crisi anche il contingente internazionale. Fra pochissimo vi farò sentire la voce di Taha Siddiqui, giornalista, accademico e pakistano, firma del New York Times, del Guardian, docente a Sciences Po, perché la tappa pakistana dell'inviato speciale statunitense per l'Afghanistan è importante, perché per molti il Pakistan rimane uno dei grandi santuari per i talebani e lo è stato in passato anche per Al-Qaeda. Facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire l'informazione finanziaria e poi apriamo la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. La seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, fra pochissimo vi porto in Pakistan e vi presento il primo ospite di quest'oggi. Un ascoltatore: e pensare che solo pochi anni fa i talebani prendevano di mira la campagna antipolio, tacciandoli di essere complotti occidentali per rendere sterili gli afghani. Curioso come cambio di linea politica. In un documento pubblicato dai talebani pakistani, il mufti Abu Hisham Massoud sostiene che il coronavirus rientra nel disegno di legge di una battaglia globale per stabilire un nuovo ordine. Sapete, secondo il mufti, chi ci sarebbe dietro questo progetto? Gli ebrei, cioè un non meglio precisato complotto giudaico. Allora, dicevo, andiamo in Pakistan. Prima però fatemi dare il ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano a Claudio Bertolotti, analista, direttore di Start Insight. Claudio, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno Giampaolo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Prima di far sentire la voce di Taha Siddiqui, lo ricordo, è un giornalista e un accademico, prestigiosa firma del New York Times, del Guardian e attento osservatore delle vicende pakistane. Claudio, prosegue senza sosta questa legittimazione politica, a questo punto anche sociale, sociosanitaria dei talebani. Si sono tolti dalla cinta le pistole, il Kalashnikov, hanno abbassato la kefia e hanno messo mascherina chirurgica e disinfettante per le mani. Quanto è credibile questa mossa? Quanto può essere efficace verso la popolazione secondo te? Beh, i talebani lo hanno fatto da un punto di vista mediatico, in realtà stanno continuando a combattere in maniera estremamente vivace sul campo di battaglia. Talebani che sono estremamente bravi dal punto di vista comunicativo e lo hanno dimostrato con una capacità migliorata negli anni nell'utilizzo del web e dei social network fin dalla metà degli anni 2000 per dimostrare, trasmettere il loro messaggio. E in questo caso l'emergenza coronavirus rappresenta una grande opportunità di consolidare la propria presenza nelle aree del paese che sono già sotto il loro controllo, ma anche di estenderla nelle altre che ancora non lo sono. Sì. E certamente non proponendo soluzioni o cure, ma lasciando credere di essere in grado di farlo. Una dimostrazione di capacità che, pur non essendo vera, viene però recepita come tale dalle popolazioni che si sentono abbandonate, in parte anche lo sono, da uno Stato incapace di proporre soluzioni efficaci e che dunque guardano all'unica organizzazione che propone cura, assistenza, dà informazione e con questo ancora una volta i talebani si può dire che abbiano vinto. Sì. Dopo le vittime dell'esercito afghano sul campo di battaglia, oggi i talebani, o meglio a cadere nella rete dei talebani, sono i cuori e le menti della popolazione afghana. E il vero problema però emergerà con il numero di morti per coronavirus, che verosimilmente si registrerà nel prossimo futuro, ma credo che anche in quell'occasione i talebani sapranno uscirne vincitori, evidenziando il numero dei guariti e dei non contagiati e non quello dei deceduti. Sì. L'analisi di Claudio Bertolotti, analista, direttore di Start Insight, un profondo conoscitore del teatro afghano. Vi anticipavo la voce di Taha Siddiqui. Come sapete, il rappresentante speciale degli Stati Uniti per l'Afghanistan, Zalmay Khalilzad, è a Doha, un altro giro di trattative con i talebani, poi India e Pakistan, lo dicevamo, non si sa bene l'agenda per motivi di sicurezza. Si è letto che il presidente pakistano Imran Khan è la vera eminenza grigia che poi ha portato, secondo queste illazioni, i talebani al tavolo delle trattative. Sentite cosa dice Taha Siddiqui. Pakistan's role in bringing the Taliban to the negotiating table has been crucial. Il ruolo del Pakistan nel condurre i talebani al tavolo dei negoziati è stato un ruolo cruciale. Ma non è Imran Khan a essere responsabile di questo risultato. Nei fatti, alla fine, è l'esercito a decidere questo genere di politiche per il paese. Sono stati i militari a dare rifugio ai talebani afghani in seguito al crollo del regime talebano dopo l'11 settembre. E sappiamo che l'esercito pakistano ha praticato questo doppio gioco per lungo tempo, sostenendo con una mano i talebani afghani mentre con l'altra partecipavano alla guerra contro il terrore, nella quale si dichiaravano alleati dell'Occidente. In anni recenti, tuttavia, abbiamo visto che la crescente pressione americana ha costretto l'esercito pakistano a convincere i talebani a sedersi al tavolo delle trattative e a negoziare con gli Stati Uniti un'uscita dall'Afghanistan. Ed ecco perché, a mio avviso, stiamo assistendo ad alcuni progressi su questo fronte. Anche quando Khalilzad visiterà il Pakistan durante questo viaggio, ci si aspetta che i suoi incontri più importanti avverranno coi vertici dell'esercito, che controllano davvero le politiche pakistane nei confronti dei talebani. Sa bene dove si trovano i talebani sul territorio nazionale e, insomma, sono davvero al comando su questo fronte. Quindi, nei prossimi giorni, se l'esercito pakistano vuole davvero che questo processo di pace continui, che ottenga sostegno e si stabilizzi, si può assicurare che avvenga attraverso pressioni sui talebani afghani a cui offre rifugio. Ma se alla fine questo non è davvero quello che l'esercito pakistano vuole, allora l'intero processo di pace è a rischio. Dalla voce di Taha Siddiqui, prestigiosa firma del New York Times e del Guardian, alla voce di Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, analista, ha frequentato i teatri afghani per anni. Chi meglio di lui ci può dare conto anche di un po' di domande che stanno arrivando al 349-238-6666. Prima però, Claudio, diamo un po' di voti o quantomeno giochiamoci un po' la fiducia di Zalmay Khalilzad. Quanto diamo di successo, quante possibilità di successo a questa missione che finalmente va a focalizzarsi anche sul Pakistan? Dalle parole di Siddiqui abbiamo capito che se non parli anche con i pakistani la sciura di Quetta non la potrai mai far fuori o contenere o gestire. Ce la farà? Ma Zalmay Khalilzad è l'uomo giusto al posto giusto. Il problema è il poco tempo che l'amministrazione Trump gli ha concesso ed è un tempo che segue le dinamiche elettorali per le presidenziali statunitensi, e i talebani questo lo sanno e lo sanno molto bene, pertanto puntano al miglior risultato possibile giocando proprio sulla fretta statunitense di dichiarare concluso l'impegno in Afghanistan. Il Pakistan è sempre stato un attore di primo piano nel gestire i talebani, lo abbiamo detto, lo avete ben detto nella parte introduttiva della trasmissione, ed è sempre stato un attore di primo piano anche nello scompaginare le carte sui vari tavoli negoziali ogni volta che ha visto la situazione mutare a proprio svantaggio. Lo sta facendo anche oggi perché vede vicino l'obiettivo che si è da sempre imposto, cioè avere una forma di potere amica, i talebani, in regioni al proprio confine, da poter controllare e da non dover temere. E l'attuale governo del primo ministro Khan è sostenuto, come è stato ben detto, sia dai militari, ma è sostenuto anche dai gruppi islamisti, e questo agevola la prosecuzione dei buoni rapporti con i talebani. Sì. Allora, in questo Khalilzad si troverà a dover gestire queste dinamiche e le ambizioni pakistane. Sì. Claudio Bertolotti, lo ricordo, analista, direttore di Start Insight, questa nuova avventura da poco partita che ci offre un po' di spunti di riflessione, racconta, analizza soprattutto teatri importanti come quello afghano. Forse i rapporti con Pakistan sono un po' usciti dai grandi riflettori internazionali e probabilmente non è stata una buona idea, perché i talebani pakistani hanno una loro forza e sono in contatto evidentemente con i talebani afghani, e molto spesso, come dire, le due figure, grazie anche alla porosità dei confini, l'etnia che condividono, la lingua, evidentemente sono difficili da andare a sottolineare. Qual è il rapporto che esiste fra queste due fazioni dei talebani? Siete ancora Tasiddi, che poi lo commentiamo con Claudio Bertolotti. The Afghan Taliban are the originals. They're the ones who were formed in the 90s. I talebani afghani sono i primi talebani. Sono quelli che si sono formati negli anni 90 con l'aiuto dell'esercito pakistano e che poi hanno formato il governo afghano talebano, che è durato fino al 2001. Dopo l'invasione americana del 2001, i talebani sono per la maggior parte fuggiti in Pakistan, dove alcuni di loro vivevano già, dato che il Pakistan era coinvolto nella guerra con l'Unione Sovietica degli anni 90 e quindi aveva addestrato molti di questi studenti, ossia i talebani. I talebani pakistani, nello specifico, sono una specie di sottogruppo, un'emanazione dei talebani afghani. E mentre i talebani afghani hanno un'agenda che si concentra solamente sull'Afghanistan e contro l'attuale governo afghano, i talebani pakistani si concentrano più verso il governo pakistano e soprattutto l'esercito pakistano. Si sono formati alla fine del 2007, dopo che l'esercito pakistano aveva dato la caccia ad alcuni degli elementi talebani rifugiati in Pakistan, elementi che si erano proclamati indipendenti e stavano attaccando gli interessi pakistani nella nazione. Quindi, in qualche modo, in Pakistan, la differenza tra talebani pakistani e talebani afghani è una differenza tra talebani cattivi e talebani buoni. Questa politica del talebano buono e del talebano cattivo è una politica che il governo pakistano pratica ormai da quasi 20 anni e consiste nell'evitare di dare la caccia ai talebani buoni, ossia afghani, mujahideen kashmiri, e questi sono considerati buoni dall'esercito pakistano perché combattono per conto del Pakistan alcuni conflitti strategici nella regione. I talebani cattivi, invece, sono quelli che combattono all'interno della nazione pakistana. Ora, nella maggior parte dei casi, questi militanti hanno le stesse famiglie, gli stessi network che si muovono da un lato e dall'altro e si aiutano a vicenda. Ecco perché alla fine la politica del talebano buono e del talebano cattivo è bersaglio di critiche, perché in definitiva non ci sono militanti buoni e ogni militante buono di solito si rivela un militante che sta per diventare cattivo. Una volta che un individuo ha abbracciato la militanza, diventando ad esempio un mercenario agente dell'esercito pakistano, all'indomani può diventare un agente di qualcun altro e attaccare i suoi vecchi padroni. È questo quello che abbiamo visto in Pakistan. I talebani afghani, dopo aver goduto dell'appoggio pakistano per lungo tempo, hanno generato i talebani pakistani e i talebani pakistani si sono scatenati contro il Pakistan in termini di attacchi, di omicidi, di attentati. Ed è quello che fanno dal 2007. Terror attacks in terms of the killings, and they've been doing that since 2007. Sconfortante, ma anche sconfortato il ritratto che ci restituisce Taha Siddiqui, giornalista accademico, scrive sul New York Times, sul Guardian, insegna a Sciences Po del suo paese, del Pakistan, in cui un'anima dei pakistani è stata benefica non soltanto per Islamabad, ma adesso di ritorno anche per Kabul. E se la soluzione fosse quella che suggerisce uno degli ascoltatori, Alessandro, che in realtà fa una precisazione che rimando al mittente, magari sono stupide domande, vi prego ditemelo pure, così esordisce Alessandro. Gentile ascoltatrice, ascoltatori, non vi sono mai domande stupide, al limite ci sono risposte stupide e chiaramente grazie ai miei ospiti, non tanto a me, quelle assolutamente non le avrete. La domanda, appunto, niente affatto stupida, dice, ma proviamo a pensare che i talebani non abbiano accesso alle armi, sarebbero così pericolosi e così oppressori senza armi, come se le procurano? Si può bloccare questo processo? Claudio Bertolotti, un po' l'abbiamo detto, il Pakistan evidentemente è una grande fucina per i talebani stessi, ma poi con quali altri canali riescono a procurarsi le armi? Claudio Bertolotti. Beh, innanzitutto, intanto ringrazio per la domanda perché dà la possibilità di approfondire un tema cruciale, che è quello dell'accesso alle armi, che avviene sulla base di una disponibilità finanziaria, economica, da parte dei talebani, che consente loro di poter acquisire le armi su un mercato più o meno nero, anzi diciamo grigio, estremamente ampio ed estremamente generoso. I talebani che hanno entrate molto importanti che derivano dal traffico di oppiacei, hanno la possibilità di acquisire queste armi che arrivano sul mercato afgano prevalentemente, ma non esclusivamente, dal Pakistan. In realtà arrivano anche dall'Iran, che ha sostenuto e continua a sostenere una parte dell'insurrezione afghana, e tra questi anche i talebani. Ma arrivano anche da quelle regioni pakistane, in particolar modo il Waziristan, sotto controllo talebano, dove le armi vengono costruite. Vengono costruite come copie delle armi originali, i Kalashnikov, gli AK prima 47, sì, poi gli AK 74 successivamente, vengono costruiti materialmente in quelle zone. Sì. E poi molte armi vengono recuperate dalle forze armate afghane che si arrendono o che cadono sul campo di battaglia, lasciando armi ed equipaggiamenti in mano ai talebani. E questo è un po' il benefico cocktail che permette ai talebani di armarsi, così Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, scusatemi, ha risposto a un nostro ascoltatore. Claudio, stai con noi se hai tempo, facciamo una piccola pausa, vediamo come va la viabilità e poi facciamo che mi prendi tu per mano, va, che io non sono così avvezzo alle strade di Kabul, con la voce di un'emittente afghana, Tolo News, andremo proprio lì per vedere qual è la situazione. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun luogo è lontano. Da un lato cerchiamo di dare dimensione di questa ennesima vittoria dei talebani, almeno a livello di media, di propaganda. Giù il Kalashnikov, giù la kefia, mascherina chirurgica, termometro, a volte finto, igienizzante per le mani. Insomma, si propongono di sostituirsi, come spesso hanno fatto, al fragile governo afghano. Stato sociale, stato sanitario, così sui loro account Twitter, sui loro media di regime. Poi però c'è l'ala armata, le fazioni armate, che in queste settimane certo non hanno smesso di combattere. Con Claudio Bertolotti abbiamo compreso meglio anche da dove arrivano le armi. Gianluca D'Aiesolo sottolinea un altro aspetto che per carenza di tempo non riusciremo a approfondire. Un IED, cioè un ordigno esplosivo improvvisato, viene costruito senza avere armi, economico, facile da costruire, con grande impatto distruttivo, e relativi filmati da condividere sul web per dimostrare la loro forza. Confermo tutto ciò. Le missioni internazionali avevano fra i vari compiti, quando si usciva in pattuglia sulla Ring Road o anche su strade secondarie, come prima cosa intanto attivare i jammer per andare a disturbare le frequenze per eventuali inneschi fatti col cellulare, e poi andare ai loro, a volte, a ispezionare fisicamente anche i vari condotti delle acque, proprio per cercare questo tipo di terribile arma. 349-238-6666 per voi, mentre Claudio Bertolotti, ti dicevo, abbiamo la voce di Mirak Popal, giornalista di Tolo News, il primo canale di notizie, il News 24/7, che trasmette dall'Afghanistan. Beh, sostanzialmente gli abbiamo chiesto se è vera propaganda o se i talebani sono davvero più organizzati nella gestione del coronavirus. Sentite cosa dice Mirak Popal. I would like to say that this is just propaganda. Tengo a precisare che si tratta di mera propaganda. Non abbiamo notizie verificate certe che mostrino che i talebani siano realmente in grado di gestire meglio l'epidemia da coronavirus. Inoltre, bisogna sottolineare come la maggior parte dei contagi si verifichi nei centri urbani, non nelle aree rurali, che sono le zone controllate in maggioranza dai talebani. Quindi, in base ai dati che abbiamo, il governo afghano è stato in grado, per quanto possibile, di arginare il diffondersi dell'epidemia nei centri urbani. Questa è la voce di Miraca Popal che ci arriva da Kabul Tolo News. La vostra voce 349-238-6666. Qualcuno non si capacita, ma come? Non hanno da mangiare ma si fabbricano le armi. Qualcuno dice è possibile bruciare e diserbare i campi di oppio? Credo che i droni siano un ottimo strumento. Ma quanti campi di coltivazione di oppio ci sono in Afghanistan o in Pakistan? Ecco, forse è proprio questa la domanda, e soprattutto in quali zone sono, da chi sono controllati? Claudio Bertolotti, non ti stanchi mai di sottolineare questa come una delle principali linee di finanziamento dei talebani stessi. Cos'è? Incapacità del governo afghano e della comunità internazionale o una domanda di oppio in giro per il mondo che, come dire, è irrefrenabile, ecco? Ma forse tutto assieme. Diciamo che la comunità internazionale ha preso atto dell'incapacità di contrasto alla produzione, al traffico di oppiacei già nel 2005, quando il Regno Unito aveva la responsabilità del contrasto al narcotraffico. Ci si rese conto allora che era impossibile riuscire a contrastare non solo il traffico, ma anche la produzione, quindi la coltivazione degli oppiacei, perché quelle coltivazioni davano e danno tuttora da mangiare a intere popolazioni delle aree rurali e periferiche dell'Afghanistan. Non ci sono colture alternative ammesse dai talebani, e tutto ciò che è stato tentato come soluzione alternativa, dal grano pagato al prezzo dell'oppio allo zafferano che si è tentato di introdurre specialmente nella zona di Herat, ha dato risultati fallimentari, sì. Anche perché i talebani pagano in anticipo. Quindi quando il governo afghano o la comunità internazionale interviene nel diserbare, qualcuno ha detto con i droni e con gli aerei, sì, dobbiamo bruciare i campi, è tutto possibile. Il problema è che i contadini sono già indebitati, quindi sono obbligati a fornire il pagamento del prodotto non venduto, non distribuito, sì, e quindi obbligando gli stessi a seminare l'anno successivo il doppio della quantità seminata l'anno precedente e andata eventualmente distrutta. E anche questi bizzarri, occulti meccanismi finanziari, in realtà molto basici, contribuiscono evidentemente al perdurare di questa industria. C'è un ascoltatore via SMS, suggerisce un suggerimento di lettura che accogliamo volentieri: l'ultimo lenzuolo bianco, l'inferno e il cuore dell'Afghanistan. E mi fanno piacere anche questi suggerimenti. Questo programma, questa trasmissione, vuole essere anche un luogo di incontro, di dibattito, di scambio di informazioni, anche sensazioni, analisti diversi, reporter diversi. Claudio Bertolotti, che ha conosciuto quel teatro e lo conosce bene, e Miraca Popal, che lì ci vive e tenta di raccontarlo, telecamera in spalla, molto spesso a discapito della sua stessa vita. Ancora con la voce di Miraca Popal, come sta cambiando il sentimento della popolazione nelle zone controllate dai talebani? Cioè, è vero che da combattenti impenitenti, da feroci mujahideen, si sono trasformati in amorevoli crocerossine, direbbe qualcuno, e senza evidentemente dileggiare l'organizzazione umanitaria? Sentite cosa dice. As far as we know, less cases of coronavirus have been reported. Oltretutto, sempre in relazione ai dati che abbiamo, sono pochi i casi di coronavirus registrati nelle regioni in mano ai talebani. Di conseguenza, sono pochi anche i guerriglieri che stanno realmente fornendo servizi sanitari primari alla popolazione. Il coronavirus, per le persone che vivono nelle aree rurali controllate dai talebani, non è un particolare problema. Questa è la voce che ci arriva da Kabul, Miraca Popal. Ancora con Claudio Bertolotti, arrivano un po' di messaggi al 349-238-6666. C'è chi chiede se vi è ancora la presenza di Emergency. Se non erro, assolutamente sì. Qualcuno dice legalizzare gli stupefacenti per eliminare queste logiche, e altri messaggi di cui fra pochissimo vi darò conto, anche se mancano pochi minuti. In ultima istanza, Claudio Bertolotti, torno da te, lo ricordo, analista, direttore di Start Insight. Si può dire che i talebani alla fine hanno un vero e proprio governo effettivo che controlla l'Afghanistan, cioè processo di normalizzazione e legittimizzazione completato al 100%, sì o no secondo te? Beh, no, ancora no, ma siamo a buon punto, in una fase molto pericolosa in cui i talebani stanno dimostrando la loro reale capacità anche aggressiva, da un punto di vista sia militare che politico. Sì, e grazie mille Claudio Bertolotti anche per la brevità e la sintesi con la quale hai risposto all'ultima domanda. Claudio Bertolotti, Start Insight, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. La stessa domanda l'abbiamo fatta anche a Taha Saddiqi, lo ricordo, è un accademico, insegna a Sciences Po, lo potete leggere sul New York Times e sul Guardian. Insomma, i talebani sono un governo effettivo, hanno oscurato il fragile governo afghano. Sentite cosa dice. The Afghan Taliban do control considerable parts of Afghanistan. I talebani afghani controllano porzioni considerevoli dell'Afghanistan, specialmente al sud, in quelle parti del paese che confinano con il Pakistan. Possono attraversare il confine con facilità e ritirarsi in Pakistan ogni volta che serve, in modo che il governo afghano o altri gruppi non riescano a raggiungerli. Spariscono in queste aree montagnose e l'esercito pakistano non dà veramente loro la caccia. Quindi, in questo senso, i talebani afghani esercitano di sicuro una forte influenza sull'Afghanistan, ma stiamo assistendo sempre di più a un calo di gradimento nei confronti dei talebani da parte della popolazione afghana. La popolazione, ovviamente, incolpa l'invasione americana e degli altri paesi stranieri per i molti problemi del paese, ma stanno sempre più accusando anche i talebani di aver generato una crescente violenza. Stiamo assistendo a questo processo perché in Afghanistan c'è una crescente consapevolezza veicolata attraverso i media e anche attraverso i social media. Le testate giornalistiche indipendenti sono sempre più attive e lo stesso governo afghano ha aumentato questa presa di coscienza, anche se adesso assistiamo a uno stallo tra le due parti in gioco dopo le elezioni. Insomma, mi pare che il popolo afghano abbia iniziato a credere più a se stesso che a questi gruppi di militanti che una volta ricevevano molto più sostegno e che ora lo vedono sempre più ridotto. Dato che i talebani afghani di solito usano la paura, l'intimidazione e la violenza più sanguinaria, sfortunatamente riescono a farsi sentire e dato che hanno un forte sostegno da nazioni come il Pakistan, mantengono ancora una considerevole influenza, anche grazie a questi appoggi. Senza questo appoggio, senza questo sostegno che arriva da paesi stranieri, tra cui non c'è solo il Pakistan, i talebani non godrebbero di una tale legittimazione nel paese. Così Taha Saddiqi. Ricordo, e siamo quasi in chiusura, che l'intervento internazionale in Afghanistan è costato tantissimo, miliardi e miliardi di dollari per gli Stati Uniti, vite umane, tante, troppe, tra cui anche quelle italiane, con il risultato che si è lasciato un paese allo sfascio. Certamente questo merita una riflessione politica. L'ultimissima arriva da un ascoltatore che mi dice: desidero ricordare che in Pakistan ci sono 50 testate nucleari accertate, testate anche dalle occidentali, e noi ci preoccupiamo delle ipotetiche armi nucleari in sviluppo presso l'Iran. Verissimo, Carmine da Milano, ce ne siamo occupati di questo doppio pesismo geopolitico, ma ci torneremo. Intanto Filippo Reggi mi dice una cosa. E io obbedisco salutandovi e ringraziandovi, così come ringrazio la squadra in nessun luogo, dandovi appuntamento domani ore 16. Buona giornata da Gianpaolo Musumeci.